Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Potrei dire, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che l'ospite che ho qui l'onore di avere oggi è un po' in veste di monade, si potrebbe dire, proprio perché in genere è concepito in una triade, in una sorta di trinità, di trio, ecco, per dirla più semplicemente. E quindi mi piacerebbe sapere da lui, una volta che si trova in questa inconsueta situazione un po' solipsistica, con quali aggettivi lui solo, di per sé stesso, si descriverebbe? Tre aggettivi. Timido, colto e fortissimo a tennis. C'è una, diciamo, una piccola bugia, ecco, in questi aggettivi, però scopriamo se è solo quella o se ci sono altre cose che dobbiamo poi confutare. Sì, lo però... ammetto, non sono così colto come vado dicendo. Non era quella, allora sono due le bugie. Vabbè, timido. Non sono timido, d'accordo, sono sfrontato. Comunque lui è Giacomo Poretti, e voi direte, sentendo Poretti, chi è questo Giacomo Poretti? In realtà perché vi può sembrare un po' non così notorio, conosciuto il cognome? Perché Giacomo è uno di quei personaggi il cui nome basta la parola, insomma, basta il nome e già... È uno dei pochi privilegi il nostro, quello di non dover mai dire il cognome, anzi se lo dici ti dicono, scusa, ma voi tre chi siete? Ecco. Baglio, Storti e Poretti e che ci cacciano via. Se invece Aldo, diciamo, Giovanni e Giacomo. E allora... funziona tutto, a meraviglia. Senti, ma Aldo e Giovanni ti hanno lasciato venire qui tranquillamente solo? Hanno detto no, senza di noi, aspetta, dove vai? No, assolutamente. Intanto bisogna prendere un po' delle boccate d'aria dal trio, perché sennò diventa claustrofobico. Come nelle coppie, no? Quando stai troppo in sé, troppo addosso, dopo un po'. Questo non lo volevo dire io. No. Però, sei per la coppia aperta, per gli spifferi, come si diceva una volta. No? Un pochino. No, invece, per quanto riguarda la convivenza nel trio, gli spifferi ci vogliono, e come, sennò c'è puzza d'aria stantea. Quindi... Aldo, Giovanni e Giacomo. Qui c'è Giacomo e quindi io vorrei concentrarmi soprattutto su di lui, anche se insomma la storia tre un po' la ricostruiremo, ma prima di tutto partiamo proprio dalle origini, lontanissime, stavo dicendo, vorrei essere fuzia, con Giacomo, non così lontane, 1956. Sono quasi 53 anni. Villa Cortese, vicino Milano. Lì nacqui. Sei naturalmente cresciuto da allora. Non molto, per la verità. Ecco, però... a questo proposito, visto che lo dici tu e quindi non sono io quella che è impertinente, io cercando un po' di notizie su di te ho trovato una cosa che di solito si trova per le donne, no? Per le donne c'è sempre questa cosa delle misure 90-60-90 o delle misure che insomma non si avvicinano, però sempre bisogna misurarle a quarti, un po' di bue, come dice qualcuno. Ho trovato una tua misura. Il numero di scarpe. 1,58 scarso, me lo confermi questo? A proposito di crescita, diciamo. 1,58 scarso non è propriamente un linguaggio burocratico, ma corrisponde alla verità. Perché, ahimè, qua è un aneddoto doloroso, che è la prima volta che lo racconto, ma è così. Caspita, allora forse vogliamo creare un rullo di tamburi. Niente, no, dice non, il nostro. Non c'è il rullo di tamburi. Il tamburo manca, la prossima volta. È meglio così. Però il momento è solenne, quindi Giacomo. Quando sono andato tantissimi anni fa a fare la visita per il militare, sarà stato il 1975, appunto, prendono le svariate misure, erano tutte straordinariamente a posto, tranne una che diceva 1,57, si riferiva all'altezza. Con quel tipo di centimetri, no, in mia dote, io avrei balzato il militare. Oh. No? Però sotto l'1,57 non si poteva fare il militare. Ma dall'1,57 sì? Sì. No. Allora, cosa succede? Che mi hanno fatto rividibile, si diceva così. Adesso non c'è più la leva obbligatoria, no? Per cui, cosa succedeva? Ti rivisitavano un anno dopo... Per vedere se eri cresciuto. Per vedere se eri cresciuto. E io ho fatto di tutto, potete immaginare, per non crescere assolutamente. Mangiavo pochissimo. Andavi in giro con il dizionario sulla testa. Esatto. No? Cose da, che è, da lì che, è da lì che ho imparato qualche parola in più di Aldo, di Giovanni. Anni. L'anno dopo mi presento a fare la visita e con un carabiniere, in genere mi sono simpatici, ma quello era carogna, no? Io cercavo di piegare leggermente le ginocchia, no? Per guadagnare quel millimetro, lui me le spingeva contro l'asticella e ha sentenziato 1,57 e mezzo. È ricresciuto di mezzo centimetro. Ma non è possibile. Ma com'è possibile? E ti assicuro... Lo sviluppo, vabbè, che a volte... Ti assicuro, senza ormoni, Cioè, non so, forse mia mamma me le metteva, però... Insomma, ahimè, ho dovuto fare il militare, che non è stato bello. Senti, c'è tra l'altro, tra i vari spettacoli, perché tu hai iniziato, Aldo e Giovanni si sono conosciuti prima tra di loro, hanno fatto spettacoli, cioè, vari, addirittura all'oratorio insieme. Vero, sì, proprio da ragazzini, quindi diciamo che la coppia iniziale era quella loro. Poi invece, dopo un po' sei arrivato tu, ma racconteremo come, e tra gli spettacoli viene in mente Mensana in corpore nano, quindi esatto. Tu già eri consapevole nei primi passi che... Sì, sì, c'era tutto un pezzo scritto con un altro autore che si chiama Carlo Turati, che era sui portatori di un'altezza. Sì, perché adesso si offendono tutte le categorie, no? Cioè, quelli ciechi, non vedenti, no? Gli spazzini, gli operatori ecologici e chi più ne ha più ne metta, no? E i piccoli, scusa, perché piccoli è certo. Dispregiativo, per cui portatori di un'altezza. O tappi ancora nel peggiore, proprio sì. Discriminatorio, non politicamente corretto. Sei alto certamente. Un metro e uno, vabbè, insomma, adesso non lo diciamo. No, per cui... E però, quindi, questi erano gli inizi, però gli ritornando inizi. Ancora più alle origini, quindi dicevamo, sei nato nel 1956, sei cresciuto, non moltissimo, ma sei cresciuto. Da che bambino eri, a parte non avere i baffi? Che bambino... Ma da quello che mi raccontano i miei genitori, molto, molto vivace e contemporaneamente anche timido, insomma, no? Dipendeva un po' dalla situazione. Posso raccontare un altro aneddoto? Certo. Che tra l'altro è condiviso anche da Aldo. Io sono uno dei tanti bambini cresciuti in quella generazione del post-post dopoguerra che ha avuto una tristezza particolare che va raccontata. Noi siamo una delle poche generazioni che è stata in colonia. Sì. Non in colonia penale, ma forse anche peggio, no? Sì, adesso vanno alle Maldive, adesso i bambini, in colonia, 7-8 anni vanno a Sharm el Sheikh, vanno alle Maldive, invece noi andavamo a Pinarella di Cervia, andavamo a Celle Ligure, Pietra Ligure, no? E stavamo un mese, si partiva da Milano e le colonie erano organizzate dalle aziende dove lavoravano i nostri genitori. E la tristezza era che si partiva dalla stazione centrale, tutti intruppati su di Milano, di Milano, no? E già all'uscita del tunnel cantavamo la canzone Milano, Milano, Milano arriveremo, la mamma torneremo, e poi anche il papà. Oh. Abbasso la colonia e viva la libertà. No? Addirittura, quindi già c'erano. So che se Aldo mi sente sta già versando lacrime amare, no? O lacrime dolci di nostalgia, però insomma io ringrazio intanto tantissimo Giacomo, di Aldo Giovanni e Giacomo, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, di aver raccontato ben due aneddoti che secondo me ha riservato, posso dire, sì, alla mia persona, a Storielli, quindi a Radio 24. Storielle. Storiacce. Siamo sempre qui, Roberta Giordano, con voi qui a Storielle e soprattutto accanto a me un grande piccolo uomo, si potrebbe dire, come il famoso film con Dustin Hoffman, Giacomo Poretti, in arte Aldo Giovanni e Giacomo, in arte bisogna dire tutti e tre i nomi, è venuto qui senza bisogno di accompagnamento, l'hanno lasciato tranquillo a raccontarsi qui, e ha già raccontato delle cose, direi degli scoop veri e propri qui a Storielle. Giacomo, siamo partiti dalle origini, dall'anno 1956 e poi un po' abbiamo ricostruito, diciamo, la sua infanzia con delle venature tristi della colonia, che ormai molti non sanno neanche triste. Più di cosa si tratta. Il militare, dove è riuscito a crescere ancora mezzo centimetro, quindi non è riuscito neanche a gabbare, insomma, il servizio militare. Poi Giacomo, in realtà, prima di diventare un comico di grandissimo successo del trio, è vero che hai lavorato per tanti anni in ospedale, quindi quello che più a livello opposto agli antipodi si può immaginare di un comico. Sì, confermo, ma se addirittura vogliamo inserire qualche venatura dickensiana in questo racconto, prima di lavorare in ospedale ho anche lavorato 4-5 anni in fabbrica, no? Ti sei fatto le ossa, insomma, non è che... Sì, sì. E poi ti puoi sempre riciclare, come no, infatti, se dovesse andare male un mestiere come saldatore, no? Visto che tanto nessun italiano adesso lo vuol fare, io mi metterei in campo libero. Campo libero, secondo me, insomma, no? E dopo aver fatto il saldatore per 4-5 anni, cioè questa fabbrica chiudeva, per cui io avevo lo spettro del militare davanti, a casa mia bisognava lavorare. Ho fatto domanda in ospedale pensando di rimanere lì un annetto e non di più, l'ospedale mi hanno assunto, e siccome in tutti gli ospedali allora come adesso c'è penuria di personale infermieristico, dopo un paio di mesi che si pulivano i pavimenti, prendevano questi ragazzi come noi, li sbattevano in turno con altri infermieri ovviamente diplomati, e ti dicevano che dovevi fare il facente funzione, cioè andavi ad occupare lo spazio di una figura che non c'era, per cui tu davi una mano, no? Sostanzialmente pulivi, no? Facevi il lavoro più grossolano. E dopo c'è stato il militare, e quindi quando sono tornato dal militare ho deciso di fermarmi lì per un'altra decina d'anni in ospedale, mi sono diplomato, ho fatto l'infermiere professionale e il caposala, e mi sarei anche fermato a lavorare in ospedale, no? Se non che il mio sogno era un po' quello di fare il medico, ma non avendo la scuola superiore, insomma mi mancava qualche titolo, no? E allora niente, l'altra mia passione era quella del teatro, mi sono messo a fare questa scuola. E posso chiederti a che età? Perché uno dopo che ha fatto questi mestieri, il saldatore, quindi ha lavorato in fabbrica, ha fatto l'infermiere, poi dopo sei diventato caposala, no? Con il tempo, quando hai trovato il modo, il tempo e anche il coraggio di dire mollo e vado a fare... Ma il coraggio non lo so, però lì il problema vero non era tanto il coraggio ma il tempo, trovare il tempo. No? E allora fino a quando si facevano i turni di notte o di pomeriggio, non si poteva, no? Poi invece casualmente quando facevo il caposala, che il mio orario era un orario d'ufficio, tipo che alle 6 di sera ero fuori, c'era tutta la serata libera, per fortuna c'era anche una scuola di teatro serale, come le altre che avevo fatte, allora mi sono iscritto, ho fatto questa scuola per 2 anni di teatro a Bustarsizio, e lì a un certo punto, finita la scuola, c'era l'opportunità di andare a lavorare in teatro. E ho detto, cosa faccio? Mi licenzio? No, ma sì, siccome l'avventura mi è sempre un po' piaciuta nella vita. E ti ricordi quanti anni avevi? E avevo 29 anni. Beh, no? Sì, grandino, sì, grandino. Insomma, i miei genitori già mi pensavano a posto, sistemato, mi hanno guardato... Con cipiglio, no? Sì, un po' strano, senza impedirmi nulla, però insomma, no? In effetti non avevano tutti i torti, perché... Uno che si butta in questo brutto mestiere dello show business all'inizio, no? Mangia pane e cipolle. È colmo di speranza e di esperienza zero, però insomma è facilissimo non guadagnare un soldo, perché purtroppo spesso è così. Un po' un terno al lotto, no? Al di là del talento che ovviamente in voi, te, Aldo, Giovanni e Giacomo c'è, lo avete dimostrato insomma proprio a profusione, però per molti diventa anche una questione ovviamente di fortuna, di incontri, sì, giusti, di essere al posto giusto nel momento giusto. Sicuramente, insomma, per non essere troppo Dickens, i primi 2 o 3 anni era veramente durissima, proprio se non dura, durissima. Però hai resistito, non hai detto, caspita, quasi quasi mi ritorno in ospedale a lavorare. Ma per la verità arrivi sempre lì a dire, vabbè, adesso la smetto, adesso torno indietro, eccetera, eccetera. Fino a che le circostanze diventano fortunose, oppure tu hai fatto in modo tale che tutto si prepari, la concomitanza, esatto, cose, no? E allora insomma dopo qualche anno di cabaret con Marina Massironi, tra l'altro la tua compagna, esatto, no? Sì, ci chiamavamo Ansel e Strudel, di bello forse avevamo solo il nome, no? Forse dopo 3-4 anni di teatro per ragazzi che insomma non c'era una lira, è capitato che intanto avevo conosciuto Giovanni e Aldo, che nell'ambiente del cabaret milanese erano già un nome di tutto certa rispetto. Rilevanza, insomma, una coppia. Però che funziona... soprattutto la prima volta che li ho visti è proprio un innamoramento artistico. Un colpo di fulmine, diciamo pure. Era il 1990, più sì, o meno? Sì, io li avevo visti prima all'Opera, credo intorno al 1988 così, e facevano uno spettacolo che secondo me era inarrivabile proprio, ed era così raffinato che percepivo anche che la gente non era ancora pronta. No, però dice, io con questi due io devo lavorare, devo lavorare. E poi insomma si è creata la circostanza per cui si è potuto lavorare insieme. C'era un nostro amico che aveva un locale vicino alla Malpensa che alla domenica sera non riceveva neanche un cliente. E allora lui disse, ma sentite, il mio locale è chiuso, voi venite lì tutti e tre, fate quello che volete, io faccio pagare un biglietto di 5.000 lire, l'incasso è vostro, io mi arrangerò con le consumazioni. E noi siamo andati lì perché ci conoscevamo, eravamo amici. Ah, nel frattempo Aldo viveva a casa mia, no? Che si era separato, non aveva casa né lavoro né niente, no? E lo sopportavo a casa mia, che nel frattempo mi ero separato a mia volta. E quindi, insomma, unendo tutte queste sfortune, no? È nata una grande fortuna. È successo che dopo poche settimane che lavoravamo in questo locale che si chiama Caffè Teatro, ci siamo resi conto da un piccolo particolare, che c'era un gruppo di 20-30 persone che per 2-3 domeniche aveva continuato a venire a vedere lo spettacolo e si vestiva come noi. Ah, perché noi avevamo delle giacche con degli inserti di leopardo qua e là. E allora questa tavolata di 20 persone, cioè, si vestiva come noi. Allora abbiamo capito che forse stavate facendo proprio i tendenza. Primi fans, esatto. Ah. Quell'anno lì abbiamo creato praticamente tutto il nostro repertorio. Pensa un po'. E che poi dopo si è dipanato e sviluppato negli anni a venire, nel senso, nel 1992 siete approdati a Zelig, no? Sì, sì, sì, che lì era lo Zelig vecchio, non è quello che allora è era solo dopo. Era un localino di non più di 100 posti, teatrino. Che era un teatrino che era lì sulla Martesana, no, sul Naviglio a Milano. Anche lì abbiamo ripetuto la stessa esperienza, abbiamo lavorato per un anno di fila, fino a quando poi è già l'ora di dirlo. Di si può dire gol. Sì, no. Poi avete partecipato a un sacco di programmi televisivi, in particolare Mai dire gol. Sì, no? Diciamo che prima abbiamo fatto sì, il circo di Paolo Rossi, Celito Lindo, però nel 94 con Mai dire gol c'è stata l'esplosione. Sì. Sì. Poi dopo avete cominciato quindi il teatro, TV, poi il cinema, fino ad arrivare all'ultimo che dell'anno scorso, sì. Cosmo sul Comò. Prima sul tuo cellulare, ti sei distratto un attimo, è apparso il volto di un bimbo. Eh sì. È il tuo bimbo? È il mio bimbo, il bimbo è mio e di Daniela, che è mia moglie, Emanuele, che ha quasi 2 anni e mezzo, sì. Me lo porto sempre, come tutti i papà instupiditi, innamorati dei propri bimbi, se lo portano sul cellulare. In chiusura, Giacomo Poretti, alias Aldo Giovanni e Giacomo. Questa che tu vedi è la lampada magica di Aladino. Ah. Adesso ti tocca esprimere un desiderio. Uno? Anche uno e mezzo, via. Si potrebbe spaziare in tanti campi. Regalare dei fratellini o delle sorelline ad Emanuele, quello sarebbe un desiderio, no? Daniela, si chiama Daniela. Daniela. Lo sappia Daniela, sì, forse sì, non è ancora stata informata. No, ma lo sa anche lei, no? Poi, vabbè, ma io in realtà ho già avuto tanto dalla vita, per cui non è bene chiedere troppe cose alla vita, non bisogna un po' accontentarsi, no? Ecco, se fossi stato qualche centimetro un po' più alto, no? E anziché andare a fare le scuole serali, i miei genitori mi avessero mandato a fare un corso perché adesso i ragazzini finiscono la scuola alle 1:30 e poi iniziano una serie di corsi, cioè di master, cazzarola, già alle elementari uno fa già il master, che hanno la tabella di marcia, c'è la tabella dalle 2 alle 3 canottaggio, dalle 3 alle 4 tennis, poi kendo, inglese, poi inglese, il computer di tutto, ecco. Io ho passato i miei pomeriggi all'oratorio, ho passato un'infanzia meravigliosa, no? Senza fare niente, senza nessun corso. Però se mi avessero messo in mano una chitarra, no? E avessi imparato a suonare la chitarra, ecco, un mio sogno inespresso è quello di essere un chitarrista di una band rock, no? Di una solo cantando di chitarra. Cantando o solo suonando? Ma mi sarei accontentato anche di fare gli assoli di chitarra, no? Secondo me sei sempre in tempo. Comunque, insomma, lo teniamo qua, questo desiderio. Devo chiedere a mia moglie se è contenta che mi metta lì a strimpellare la chitarra. Daniela, faccelo sapere. Intanto, grazie. Posso scrivere la letterina a Babbo Natale? Puoi scrivere, sì. Tanto una a Babbo Natale e una a Daniela. Va bene. Facci sapere. Va bene. Grazie, Giacomo. Ciao. Ciao.